Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Saluto e ringrazio Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. 800 24 0024, questo è il nostro numero verde già a disposizione. Andiamo a sentire insieme i titoli del nostro sommario. Quando il caldo dà alla testa. Superdialisi, parliamone. Pensare il bene favorisce il bene. Ci aspettano giorni caldi, bollenti. La colonnina di Mercurio si impennerà, il che potrebbe crearci qualche piccolo disagio. Allora è meglio giocare in anticipo. Ci aiuterà a farlo il professor Comi. Buongiorno, professore. Buongiorno. Direttore dell'Istituto di Neurologia Sperimentale al San Raffaele di Milano. Con il professor Comi cercheremo di capire come il caldo, quali effetti produce il caldo sul sistema nervoso e quindi anche sul nostro cervello. Professor Comi. Il caldo, come tutti gli eccessi, parliamo di caldo in eccesso ovviamente, è un elemento di disturbo al nostro cervello, il quale vive bene quando è in una situazione equilibrata di interazione con l'ambiente. Quindi eccessi di caldo vengono percepiti da strutture speciali del nostro cervello, proprio deputati a questo. Abbiamo una specie di centralina che misura la temperatura, che sta in una struttura che si chiama ipotalamo, e di conseguenza il cervello si modifica e reagisce in base alla temperatura che percepisce. Avremo modo di dare molti dettagli più avanti. Eh sì, perché questa sorta di centralina, professor Comi, governa pensieri, azioni ed emozioni, e quindi questo ci darà modo, come lei ha anticipato, di affrontare tanti aspetti, ma anche soprattutto di occuparci di tanti piccoli disturbi per distinguere quelli innocenti da quelli più seri, e soprattutto oggi impareremo a proteggerci dal caldo in modo efficace usando la testa. Ma io lo leggiamo sui giornali, l'abbiamo sentito anche il nostro GR, grande ondata di caldo, ma con che tipo di caldo dovremo confrontarci? Lo chiediamo a Luca Mercalli, che è in linea con noi, presidente della Società Italiana di Meteorologia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, sarà un vero caldone questo che arriverà nei prossimi giorni? È un'ondata di caldo con le caratteristiche non certo di eccezionalità, però si tratta di un evento che soprattutto al centro-sud sarà, come diceva il professor Comi, rilevante per superare in qualche caso gli eccessi, perché sulla Sicilia e sulle regioni meridionali si arriverà anche a toccare i 40 gradi, 35-38 gradi li avremo su gran parte delle regioni centrali, e fino alla pianura padana ancora qualche valore sui 35 gradi si dovrebbe toccare. Ora, la nostra tolleranza al caldo però dipende anche da altri fattori, fisiche che si combinano con la temperatura, e sono in particolare l'umidità relativa dell'aria e la velocità del vento. Quindi combinando questi fattori insieme ci saranno delle zone dove i 40 gradi potranno magari essere molto più sopportabili dei 35 di altre località, per esempio con un'umidità molto elevata. Quindi località in certe particolari situazioni geografiche favorite dalle brezze, dove l'umidità non è troppo elevata, anche con temperature alte si potrà sopportare molto bene. Un caldo secco, in linea generale basta mettersi all'ombra, bere molto perché c'è l'evaporazione molto attiva, però il nostro corpo vi fa fronte abbastanza bene. Invece è più difficile sopportarlo nelle aree come la pianura padana, dove la ventilazione è bassa e l'umidità invece è molto abbondante, con questo caldo afoso stagnante soprattutto di notte, e allora in questo caso bastano anche 23-25 gradi ma con umidità del 60-70%, può diventare veramente insopportabile. E lei soffre il caldo? Moltissimo, lo detesto nel vero senso della parola, infatti fuggirò il più possibile lontano dalle città. Cercherò di andare in zone di montagna verso i 1000 metri e aspettare, proprio grazie alle previsioni meteorologiche, che l'ondata di caldo passi. Questa forse è anche una delle novità oggi con cui possiamo godere i risultati di una tecnologia moderna che ci permette di prevenire i problemi. Quindi la previsione ci dice che questa settimana avrà queste caratteristiche, ma già sul sabato domenica arriverà un soffio di aria un po' più fresca da nord-ovest, e quindi ci sarà una pausa in questa ondata di caldo. Quindi ci fa già una previsione rinfrescante. Grazie a Luca Mercalli per essere stato con noi. Buona montagna, la penseremo. Lavorerò al computer al fresco. Un po' di invidia ce la fa venire. Grazie Luca Mercalli, buona giornata. Anche a voi. Professor Comi, invece noi restiamo insieme sino a mezzogiorno. I nostri ascoltatori da casa possono chiamarci all'800 24 00 24. Ma professore, in estate il caldo diventa un po' il capro espiatorio per tutti i nostri problemi. Se siamo più irritabili del solito, se facciamo fatica a concentrarci, se siamo ansiosi o apatici o ancora presi da una sorta di frenesia, diamo la colpa al caldo. Forse questa è anche in alcuni casi una scusa. Allora ci faccio un po' capire bene che cosa sta succedendo ad un ipotetico signor Rossi, che in questo momento, sono le 11:12, sta camminando in una strada del centro cittadino. Beh, il signor Rossi è esposto ad alcuni rischi, perché nel centro cittadino oltretutto la ventilazione dell'aria è minore rispetto agli spazi aperti, e quindi il calore reale percepito dal corpo, che non è solo quello della temperatura dell'ambiente ma è anche legato alla ventilazione, è ancora più elevato. Ed è questo il motivo per cui è proprio, come dire, come tendenza, no? C'è sempre stata quella di fuggire dalle città, di andare in vacanza in posti ben ventilati per fare una maggiore lotta al caldo. Il signor Rossi in questa condizione ha una vasodilatazione delle sue vene e delle sue arterie, perché chiaramente il tentativo che il corpo ha da mettere in atto per disperdere il calore che si va ad accumulare è attraverso questo sistema, che è il sistema cosiddetto di termoregolazione. Ora, dilatando i suoi vasi, il sangue che arriva al cervello diminuisce come quantità, arriva con più fatica perché il cervello sta in alto nel nostro corpo e quindi deve vincere anche la forza di gravità e la pressione sanguigna. Quindi di conseguenza i neuroni cominciano a ricevere meno ossigeno e si irritano. L'irritazione dei neuroni come la possiamo cogliere? Perché si diventa irritabili e si diventa molto più labili emotivamente. Tendiamo più a deprimerci, diventiamo meno attivi e rallentiamo i nostri processi di pensiero. La sonnolenza è l'elemento che deve proprio mettere in allarme sulla eccessiva esposizione al caldo, perché è l'elemento che più fa scattare quello che si chiama l'allarme rosso. Quindi, come vede, il nostro cervello è proprio lì e percepisce questi tipi di variazioni e ne soffre contemporaneamente. Quindi è allo stesso tempo un elemento di valutazione, di misura di quello che succede nel corpo, ma è vittima di quello che succede. I bambini e gli anziani sono particolarmente a rischio, perché la loro capacità di termoregolare, cioè di stringere o di dilatare i vasi, appare inferiore, quindi il margine di difesa è sicuramente ridotto, particolarmente se si vive appunto in città. Quindi teniamo presente questi tipi di problematiche. E ce ne occuperemo nel corso della trasmissione. 800 24 0024, se volete raccontarci come reagite al caldo, se vi dà la testa, se alcuni disturbi insorgono, se altri si acuiscono, chiamateci, perché noi siamo pronti anche a raccogliere i vostri consigli anticaldo. I numeri verdi ve l'ho dato, ricordo i messaggi 349-238-6666. Una mela al giorno. Si chiama emodiafiltrazione, è una metodica di dialisi che è già utilizzata con successo da alcuni anni, è in grado di depurare il sangue in tempi brevi e con la massima efficienza, ma secondo alcuni studi recenti sarebbe anche capace di aumentare la sopravvivenza dei malati. Questa tecnica, che è stata ribattezzata da alcuni la superdialisi, è stata tra l'altro oggetto di grande attenzione al recente congresso mondiale di nefrologia che si è tenuto proprio a Milano. Ma che cosa ha di diverso dalle altre metodiche? E soprattutto, per quale tipo di paziente nefropatico è più indicata? Lo chiediamo al professor Giuseppe Remuzzi, coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, molti dei nostri ascoltatori in dialisi che hanno letto la notizia sui giornali ci hanno scritto per capire come funziona questa metodica e soprattutto per confrontarla con quella che stanno già utilizzando. L'idea che la dialisi venga fatta in tempi più brevi sicuramente è molto interessante per una persona che si deve sottoporre a dei cicli di dialisi, e soprattutto anche questi dati che dicono che aumenterebbe la sopravvivenza dei pazienti. Professor Remuzzi. Sì, è una tecnica interessante, può rappresentare l'evoluzione rispetto alla dialisi tradizionale. Intanto dobbiamo subito dire che non è una tecnica nuova, è una tecnica che si usa ormai da una ventina d'anni. È una tecnica per cui il filtro di dialisi, la membrana che consente di depurare il sangue, ha dei pori più larghi e quindi consente la depurazione non solo di molecole di piccolo peso molecolare, ma anche di molecole più grandi, proprio un po' come fa il rene. Si applica una pressione per cui si tolgono grandi quantità di acqua, di più di quelle che serve di fatto togliere all'ammalato, e poi la si restituisce quest'acqua attraverso una linea al sangue dell'ammalato, in modo che si ricostituisce il suo volume. Questa tecnica è una tecnica per adesso. Passi avanti dal punto di vista del ridurre le ore di dialisi non ce ne sono, quindi semplicemente non è vero che si possono ridurre i tempi della dialisi con queste tecniche. Si fanno 4 ore con l'emodiafiltrazione come con la dialisi, un giorno sì, un giorno no, quindi per 3 volte alla settimana, per tutte le settimane del mese, per tutti i mesi dell'anno. Quindi questa notizia della riduzione non è vera. Riguardo alla mortalità, questa è una tecnica che depurando di più teoricamente potrebbe migliorare la sopravvivenza dei pazienti. Quanto si vive in dialisi dipende. Noi abbiamo oggi in Italia malati che vivono in dialisi 30, 35, persino 38 anni, abbiamo malati che sono vissuti in dialisi 38 anni. Se questa nuova metodica davvero consentisse di migliorare questa sopravvivenza, qualcuno ha parlato di 35%, non ci sono assolutamente dati per poter dire una cosa del genere, vorrebbe dire che arriviamo a 40, 45, 48 anni di dialisi. Sarà possibile? E per saperlo bisogna che passino 48 anni e quindi quelli che verranno dopo di noi ci potranno dire se, incominciando oggi con l'emodiafiltrazione e facendola per così tanti anni, ci sarà una sopravvivenza così lunga. Professor Remussi, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Pronto soccorso. Il caldo vi dà la testa? È possibile, ma resistete, non fatevi mettere KO, chiamateci all'800 24 0024. In linea con noi abbiamo l'onore di avere il professor Comi, che è tornato a trovarci. Professore, abbiamo già in linea Tiziana da Lucca. Tiziana, buongiorno. Buongiorno. Soffre il caldo, Tiziana? Molto, soffro il caldo anche perché sono aggredita da 6 anni da quelle che sono le cosiddette caldane. Mm. Portatemi dalla menopausa da circa 6 anni, per cui soffro moltissimo sia d'inverno ma soprattutto d'estate. Tra l'altro sono 2 estati in cui soffro particolarmente, ho cerchio alla testa, la sudorazione è molto più forte e quindi volevo sapere se magari c'era qualche rimedio per questo genere di problemi. Grazie Tiziana. Professor Comi. Ma sì, i rimedi sono numerosi e oltretutto facili anche da attuare. Se abbiamo problemi di eccesso di accumulo di caldo nel corpo, occorre che noi teniamo chiaramente il corpo a una temperatura più ridotta, la più ridotta possibile. Ovviamente è importante, di solito se ne ha la possibilità, stare in ambienti molto ventilati, con le persiane abbassate. Occorre evitare che il caldo entri eccessivamente in casa. Se si ha un sistema di condizionamento, il sistema deve essere regolato su temperature tra i 23 e i 25, 26 gradi, perché una temperatura eccessivamente bassa espone poi a degli sbalzi terribili quando uno poi affronta un ambiente esterno, e che a sua volta è molto pericoloso. Quindi questi sono i rimedi fondamentali. Ci sono poi alcune cose che non dobbiamo fare. Dobbiamo assolutamente evitare di consumare alcol, perché l'alcol è veramente molto più pericoloso in estate che in inverno. Dobbiamo cercare di bere molto, anche se non abbiamo sete, e bere bevande fresche, non ghiacciate ma fresche. E infine è molto importante che noi rimpiazziamo i sali minerali che noi andiamo a perdere, in quanto se la fase di idratazione non è sufficiente a disperdere il calore, come tutti noi sappiamo, cominciamo a sudare, ma sudando, soprattutto in ambiente ventilato, perdiamo grandissime quantità di liquidi, e con i liquidi i sali, che sono sono fondamentali per il funzionamento di tutte le cellule del nostro corpo, in particolare ancora una volta per i neuroni. Quindi occorre cercare di rimpiazzare con l'alimentazione ciò che noi perdiamo, in particolare potassio e magnesio. Ottime da questo punto di vista sono diversi tipi di frutta, come le verdure, la soia, la frutta secca, i legumi, i gemi di grano. La dieta deve essere molto leggera, perché dobbiamo evitare cibi ultracalorici, quindi limitare molto tutti i grassi che ci fanno aumentare la temperatura perché producono un sacco di calore. Quindi, ripeto, rimedi abbastanza semplici, fondamentali, perché non bisogna mai sottostimare l'impatto del caldo, soprattutto a una certa età. Roberto invece ci chiama dalla provincia di Savona. Roberto, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno. Roberto, con il caldo come se la passa? Diventa irritabile? Lei lavora? Sì, faccio il bagnino. Sto correndo un attimino che arrivo. Sulla postazione. Sì. Voilà. Senta, com'è il mare oggi? Il mare spettacolare, guarda. Spettacolare. Professor Comi, noi due siamo al telefono. Non ce lo doveva dire. Mentre Roberto... Ecco, lei doveva dire, vai, è brutto. Senta, Roberto, quindi lei sta sotto il sole... Veramente. Una giornata, diciamo, spettacolare, spettacolare, usiamo questo termine che è ideale. Senta, guardi, io qui siamo sul Trespolo, diverse ore al giorno, sole ne prendiamo a vagonate, parlando proprio molto schietto. E niente, e devo concordare con la tesi che sentivo prima, con i discorsi che si sono fatti, i neuroni, eccetera, eccetera. Perché effettivamente ci sentiamo sempre un po' più nervosi, irritabili, eccetera, eccetera, eccetera. Cerchiamo di bere parecchio, diciamo, dai 3 litri d'acqua al giorno, perché sennò qui... E certo. Però allora, professor Comi, Roberto fa un lavoro magnifico che in questo momento noi invidiamo molto, però pesante, sotto il sole tutto il giorno, irritabile, perché molti ascoltatori mi scrivono: sono nervoso con il sole, con il caldo divento irritabile. Però Roberto sta anche lavorando e quindi deve essere molto attento. Cosa può fare? Beh, allora, lui ha un vantaggio e uno svantaggio, ovviamente. Il vantaggio è che, peraltro, se non altro, è in un ambiente ventilato, tendenzialmente ventilato, e questo lo aiuta a disperdere in parte calore. Lui stesso ci ha già detto che beve moltissimo, perché in un ambiente ventilato abbiamo meno calore, ma sudiamo molto di più senza accorcene, guai a non bere. E è sfortunato, nel senso che ovviamente se non si protegge ad esempio il capo con un cappello, essendo esposto per una lunga parte della giornata, rischia quello che si chiama il colpo di sole, cioè rischia di avere una eccessiva aumento della temperatura a livello dello scalpo, che poi si trasmette anche a livello del tessuto cerebrale, e quindi rischia di avere il classico colpo di calore che può portare a uno svenimento e complicanze anche più grosse. Quindi, e se sviene il bagnino siamo rovinati. Lui sa benissimo, ma sicuramente sarà lui a dire questo a tutti, a tutte le persone di cui lui si cura, che la copertura della testa è un fatto importantissimo, soprattutto nei bambini. Professore, stanno arrivando molti messaggi con i consigli anticaldo dei nostri ascoltatori, anche alcune richieste di aiuto, tra poco gliele leggerò, ma ho una domanda che mi sta particolarmente a cuore, perché il caldo, è vero, può dare fastidio e creare disagi alle persone sane, ma diventare un problema per chi soffre di malattie degenerative del sistema nervoso. Sì, beh, certo, chiaramente quando il nostro cervello, a causa delle sue patologie, è già meno efficiente nei processi di termoregolazione, ovviamente quando l'ambiente esterno diventa più ostile la crisi diventa molto più facile. In particolare, ad esempio, c'è una malattia, la sclerosi multipla, nella quale il caldo è veramente molto ma molto dannoso, perché le fibre nervose che sono state colpite dalla malattia col caldo funzionano molto meno. Per cui può succedere che la persona abbia una specie di ritorno della propria storia, tutte insieme, a causa proprio del caldo eccessivo. Ovviamente non si vuol dire a questi pazienti, e molte sono donne peraltro, molto spesso giovani, di privarsi del piacere del sole, che peraltro fa sacco di cose positive nel nostro corpo. Non dimentichiamo che il sole, attraverso la vitamina D, agisce in modo molto protettivo rispetto a infezioni e ad altre malattie. Quindi il piacere va mantenuto, ma non bisogna dimenticare di fare frequenti docce, spruzzarsi acqua fresca, fare dei bagni, in modo tale da mantenere comunque sotto controllo la temperatura del corpo. Andiamo ad Alessandria, ci aspetta Maria. Maria, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ad Alessandria picchia, fa caldo e c'è anche un po' di umidità, lo so. Tantissima umidità, sì. Mm. Allora, io faccio una domanda che non riguarda direttamente me, ma è una persona che mi sta particolarmente a cuore, che è mio figlio. Sì. Purtroppo soffre di diabete di tipo 1. Sì. Volevo chiedere, c'è molta relazione del caldo con chi ha questa patologia? Ossia, l'effetto dell'insulina è molto, cioè il caldo ha relazione anche con la resistenza insulinica? Questa è la mia domanda. Grazie Maria. Professor Comi. Mi sfido su un campo che non è il mio e quindi mi è non agevole rispondere, però ci provo. L'insulina è molto importante, perché l'insulina è quella che fa sì che noi utilizziamo gli zuccheri e i grassi introdotti nel nostro corpo, quindi serve per metabolizzare queste sostanze. Quindi se c'è una carenza di insulina ci possono essere tutta una serie di problemi che conseguono proprio all'alterazione del metabolismo. Quindi il caldo può contribuire a scompensare una condizione di diabete già precedentemente ben compensato, quindi anche qui occorre fare molta attenzione e eventualmente sentire il proprio diabetologo per adattare la quantità di insulina che viene assunta. Voilà, siamo tornati insieme, oggi parliamo insieme al professor Comi di caldo, lo sentite anche voi e cosa vi succede? Vi sentite stanchi, senza forze, abbattuti, affaticati, un po' di cattivo umore, riuscite a reagire oppure avete bisogno di un consiglio? Se volete un consiglio chiamateci 800 24 00 24. Professor Comi, luglio è tempo di esami. Ma spesso al caldo le idee fanno fatica a nascere e anche a sopravvivere, a produrre qualcosa di buono, o è un'impressione? In parte lei ha già dato delle indicazioni, ma vorrei proprio occuparmi di questa parte qui. Ma in realtà chiaramente il nostro cervello soprattutto dovrebbe servire a produrre pensieri, quindi è chiaro che se c'è un'alterazione della sua funzione, la prima conseguenza la possiamo notare in una caduta del livello di concentrazione e di attenzione. Quindi per lo studente preparare un esame durante un luglio caldo è sicuramente un problema aggiuntivo a tutti quelli che già genera questo tipo di condizione. È raccomandabile quindi ancora una volta a chi ancora sta lavorando sui libri di farlo in un ambiente molto fresco, perché questo è veramente fondamentale. Abbiamo detto prima che il primo segno importante di una disfunzione del nostro cervello è proprio la sonnolenza, quindi prima cala la concentrazione, poi subentra la sonnolenza e questo chiaramente ci toglie lucidità, ci toglie capacità di memorizzare e quindi ovviamente vanifica tutte le nostre attività di apprendimento, quindi è sicuramente un aspetto questo veramente importante. Poi occorre ricordare che con un caldo molto intenso si altera anche la qualità del sonno, perché la melatonina, che è una specie di sonnifero interno che noi utilizziamo, viene prodotta in minori quantità quando il periodo di sole diventa molto prolungato. Quindi c'è una tendenziale sregolazione del sonno in ambiente molto caldo. Credo che tutti noi sappiamo benissimo che quando ci corichiamo, se non riusciamo ad avere un po' di fresco intorno, diventa difficile addormentarsi e il sonno diventa anche molto frammentato e ovviamente l'alterazione del sonno a sua volta certo, è un gatto che si morde la coda, esatto, si riflette poi su una giornata molto più difficile e faticosa. Però in linea con noi abbiamo uno scrittore fresco di vittoria, questo ci aiuta, ci porta una ventata di freschezza. Tiziano Scarpa, vincitore della 63esima edizione del Premio Strega con Stabat Mater, edizione Einaudi. Buongiorno e complimenti. Grazie, buongiorno. Lei sta al fresco in questo momento? Ma guardi, sono sulla soglia di un bar di Milano, metà corpo esposto al caldo del marciapiede e metà al refrigerio del locale condizionato, quindi sto a metà. Sì, sto facendo esperienza proprio dei due lati dell'estate, l'aria condizionata e l'aria libera piuttosto calda. Senta, ma la sua testa come funziona al caldo? Riesce a concentrarsi ugualmente o fa più fatica? Ma guardi, io ho un'attività cosiddetta intellettuale e quindi a me fa piacere quando intorno a me c'è qualcosa che mi ricorda che ho un corpo, altrimenti scrivere è un po', sì, stare in questo mondo ideale, spirituale, disincarnato, quindi a me sta simpatico molto il caldo, perché mi fa anche ricordare che sono fatto di esperienza fisica e mi fa vivere l'esperienza della scrittura in maniera integrale, e poi basta un ventilatore per il resto. Insomma, la tiene un po' coi piedi per terra. Sì. Questo vede. Professor Comi, abbiamo trovato un effetto positivo del caldo, ne parliamo sempre male, ma Tiziano Scarpa ci ha dato un suggerimento, uno spunto per parlarne bene. Beh, insomma, chiaramente il concetto che, come ha detto Scarpa, la possibilità di ventilarsi e quindi di diminuire la temperatura che il nostro corpo percepisce è chiaramente un'ottima soluzione. Il problema ovviamente si pone quando non abbiamo dei sistemi di correzione. La percezione, tutto ciò che il nostro cervello percepisce come variazione ambientale, è sicuramente uno stimolo positivo. Io sono assolutamente d'accordo con ciò che ha detto, perché noi siamo veramente nati per essere stimolati. Il nostro cervello è nato, si è dotato di sensori verso l'esterno proprio per essere continuamente stimolato, e soprattutto essere stimolato anche dall'ambiente interno, non solo dall'ambiente esterno. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo, è molto più bello vivere in un ambiente in cui le stagioni sono ancora rappresentate, proprio perché chiaramente la temperatura esterna contribuisce in modo non marginale a dare a noi un senso diverso di ciò che succede intorno a noi. La stessa emozione è vissuta in modo diverso anche a seconda della temperatura dell'ambiente del nostro corpo. Per questo Tiziano Scarpa, per vivere un po' tutte e due, sta sulla soglia di un bar, metà con al fresco e metà al caldo. Ma volevo chiederle, lei ha un ricordo legato ad un'estate torrida? Ma sì, io ho avuto una gran fortuna nel 2003, ve la ricordate quell'estate veramente inaffrontabile? Ci fu un luglio e un agosto che furono davvero ai massimi livelli. Beh, io ho avuto la fortuna di essere invitato in quell'estate per un paio di mesi nella campagna tedesca, quindi al fresco. Lì ho visto quanto sia relativo il concetto di caldo, perché tutti i tedeschi lì, io stavo benissimo, no? E dicevo, accidenti, che fortunato sono stato ad essere invitato da questa istituzione culturale per poter stare lì a scrivere in pace, in campagna, al fresco. Invece i tedeschi si lamentavano tutti, boccheggiavano per loro, sì, ma per me era freschissimo, insomma stavo bene. Per loro invece era insopportabile, quindi davvero è un concetto relativo il caldo. Professor Comi, è proprio così? Beh, il caldo come viene percepito dal nostro cervello è sicuramente un aspetto assolutamente personale, e questo per l'ovvio motivo che il nostro ipotalamo si abitua a termoregolare, quindi a vivere in un certo tipo di ambiente, quindi quello che percepisce sono le variazioni rispetto alla sua abitudine. Quindi giustamente, se uno si sposta più a nord, la temperatura cala, ma il nostro cervello la percepisce in un modo diverso da chi vive al nord abitualmente. Quindi questo è anche spiega per quale motivo c'è una grossa variabilità interindividuale, perché al di là dell'adattamento c'è poi l'ipotalamo, come tutte le altre parti del cervello, sono personali e quindi in qualche modo regolano in modo individuale quello che succede all'interno e all'esterno del corpo, e quindi da qui percezioni diverse. Tiziano Scarpa, prima di salutarci, ci lasci con qualcosa di fresco, una ricetta, un rimedio anticaldo, una freddura, un libro magari capace di rinfrescarci le idee facendocene nascere di buone. ma una ricetta più che sugli ingredienti, direi sulla quantità, ma è ovvio, è buon senso, cioè non le quantità, non mangiare troppo, è ovvio. Ma io direi, io mi occupo più di parole, di discorsi, ciò che si dice, no? Non tanto quello che può fare la poesia o la letteratura, ma anche quello che può fare, quello che ci diciamo tra noi nella giornata, quotidianamente. Avete notato una cosa? D'inverno, quando sì, fa veramente la temperatura è rigida, se è uno che è freddo, ti scalda un po' il cuore, cioè è a subito solidarietà tra gli esseri umani. Non, sta andando un po' via la linea proprio nel momento in cui mi piaceva cogliere un po' il messaggio di Tiziano Scarpa, che proviamo a richiamare, così lo salutiamo bene, e insieme al professor Comi andiamo da Luisa, che ci chiama da Milano. 824 0024, intanto noi cerchiamo di recuperare Tiziano Scarpa, che magari è già, Tiziano è già in linea? Sì, sì, vi sento. Ecco, noi non la sentivamo più, intanto adesso abbiamo anche in linea Luisa da Milano, magari siete nello stesso bar, chissà. Tiziano, allora ci dicevi del... No, dicevo che quando è inverno, sì? Sentire qualcuno che ci dice brr, che freddo, ci scalda un po' il cuore, l'anima, ci rende più solidali, sì, mentre dire che caldo d'estate aumenta il disagio. È cioè, vero, è vero. Quindi vi consiglio di non dire che caldo, questa è la mia ricetta, cioè di non dare di non dargli soddisfazione al caldo. Bravo. Tenetevelo per voi, perché è fastidioso sentire vicino chi si lamenta, tanto invece quanto fa piacere e crea solidarietà fra gli esseri umani d'inverno sentire uno che dice che freddo. Allora ci scambiamo questo d'inverno, mentre adesso sul caldo non bocca chiusa, nessuna parola. Un saluto grande a Tiziano Scarpa, ancora complimenti, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno. E andiamo da Luisa che ci aspettava. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Cosa dice? È vero che a continuare a dirci fa caldo, si sente ancora di più, vero? Quello sicuramente. Tiziano Scarpa ci ha dato, insomma, una buona indicazione. Allora, Luisa, veniamo a lei. No, la mia domanda più che altro era relativa agli anziani. Sì. Che devono restare in città o anche non in città, perché ho un suocero molto anziano che ha il condizionatore in casa, però, insomma, il caldo lo sente anche col condizionatore. E quindi volevo sapere come ci si deve comportare, perché se diminuiscono i sali minerali, che cosa si può dare a un anziano che ha una... anziano, io parlo di 96 anni per sì, esempio, che ha un equilibrio un po' più precario del nostro. Certo. Ecco. Grazie. Luisa. Professor Comi. Beh, direi in parte la signora si è già dato un po' la risposta, nel senso che è fondamentale fare pasti non gravosi, magari più distribuiti nel corso della giornata, evitare cibi ultracalorici perché chiaramente certo, portano ulteriori problemi, mantenere un apporto idrico assolutamente soprattutto adeguato, soprattutto negli anziani, vero? Soprattutto perché negli non hanno anziani, la... perché proprio termoregolano sempre meno e quindi noi dobbiamo continuamente correre dietro alle variazioni del corpo dall'esterno, perché il controllore interno è un po' distratto, è un pochino meno efficiente. Quindi sono questi gli aspetti fondamentali, tenere ventilato e non troppo freddo però, perché se l'abitudine quando si sente caldo magari a termoregolare, a usare una regolazione del proprio condizionatore a 19 o 18 gradi, questo è veramente molto negativo, perché appena la persona si trova ad uscire ha un colpo di calore, perché il salto di temperatura, proprio perché lui non termoregola bene, diventa drammatico. E per i sali minerali persi basta la dieta o è utile utilizzare degli integratori? Con integratori ho già citato soprattutto il potassio e il magnesio, sono quelli, ma anche il sale, perché chiaramente bisogna cercare di mantenere un apporto di... e soprattutto evitare di eccedere col caffè, perché la caffeina ha un'azione diuretica e quindi fa perdere liquidi. E quindi bisogna essere molto attenti, perché chiaramente ci si altera l'equilibrio senza rendersene conto. Ma direi che neppure il caldo è in grado di fermare la verve e la vitalità del prossimo ospite. La sua agenda è affollata di impegni, concerti in giro per l'Italia a ritmo serrato, per arrivare ad un grande evento che lo vedrà protagonista nell'Arena di Verona il 1 settembre, con un'orchestra all star e costituita, pensate, degli elementi migliori delle più prestigiose orchestre del mondo, che si daranno proprio appuntamento nella città scaligera per questa occasione speciale. Avete indovinato, in linea con noi c'è Giovanni Allevi. Giovanni! Buongiorno, ma buongiorno, ciao a tutti voi. Ma che bello essere di nuovo con voi, bello. Senti Giovanni, il pezzo che stiamo sentendo, abbiamo appena sentito, è Notte ad Harlem. È tratto da No Concept, tra l'altro che è uno dei più grandi successi, disco d'oro, vero Giovanni? Per fortuna l'hai composto camminando sui caldi marciapiedi di Harlem, segno che il caldo in te produce buoni effetti. Saranno i grandi riccioli che ti coprono, ti tengono, non lo so, il caldo ti fa pensare bene. Ma sì, ripensandoci bene, a mente fredda, mi accorgo che do il meglio di me quando sono posto in condizioni climatiche e ambientali, diciamo, al limite. Infatti, così come è accaduto per Notte ad Harlem, ma anche altri brani. In genere il caldo asfissiante della metropoli mi ispira. Vedi, professor Comi, i medici suggeriscono sempre un cappellino, copritevi la testa. Con tutti questi riccioli, Giovanni Allevi, si vede che in qualche modo il suo cervello sta al fresco. Direi che infatti le preoccupazioni maggiori per il caldo a livello della testa sono proprio per le persone che hanno pochi capelli, quindi credo che lui sia assolutamente ben protetto. C'ha un cappellino incorporato? Assolutamente sì, naturale. Ma io ho anche il vantaggio di avere pochi neuroni da proteggere. Allora, senta professor Comi, ci sono tanti studi sugli effetti della musica sul sistema nervoso. Istintivamente noi scegliamo di ascoltare un brano piuttosto che un altro, spesso in funzione dei nostri stati d'animo, per tirarci su, per ricordare delle cose, per crogiolarci un po' nella nostra malinconia. Ma guardi, proprio qualche giorno fa è stato pubblicato un lavoro di enorme interesse, perché questo lavoro si è basato sulla registrazione delle attività dei neuroni. E la cosa incredibile è che se questa registrazione si accoppia a un sistema acustico, i neuroni producono delle armonie e delle musiche. Questo è molto interessante. Qualcuno dice, ma probabilmente molte delle musiche che noi produciamo sono espressioni di ritmi biologici interni che abbiamo dell'attività dei nostri neuroni. Quindi è interessante chiedere appunto ad Allevi cosa ne pensa di questo, perché è veramente sorprendente ciò che è stato visto in questo ambito. Giovanni, tu lo conoscevi questo studio? Sì, sono rimasto anche senza parole ad ascoltarlo. Dalla voce del professore. Mi piace pensare che la musica sia un'entità che dall'esterno raggiunge i nostri neuroni, anche se c'era una ulteriore teoria che voleva che appunto un'attività subatomica bizzarra come quella descritta dalla meccanica quantistica fosse responsabile nei neuroni della creazione delle melodie e delle note, un po' simile, molto vicino a quanto abbiamo appena riportato. Però ecco, mi piace pensare che la musica sia una strega che vaga come fuori dalla mia testa. E infatti, che è uno dei tuoi, il tuo ultimo libro, La strega in viaggio. La strega, sì, è la strega che ha monopolizzato la mia vita. Senti Giovanni, comunque, ricerche a parte, se la musica può servire a farci stare meglio, io direi suggeriamola un po' come terapia coadiuvante per alleviare alcuni disturbi di cui abbiamo parlato oggi, piccoli malesseri che il professor Comi ci ha spiegato proprio come risposte del nostro organismo all'aumento della temperatura. Allora ti direi di scegliere tra i brani che hai composto quello che suggeriresti ad una persona a cui manca un po' l'ispirazione, non riesce a concentrarsi. Quindi una persona come me. Come me anche. Difficoltà di concentrazione. Io direi il brano Whisper, perché è eccolo qua. Eccolo, ma noi dalla regia siamo avanti, Giovanni. perché contiene degli andamenti musicali che possono distrarci dalle nostre vicende quotidiane. Professor Comi, un brano che dà la carica, ci fa concentrare? Lei lo avverte? Direi che è un brano fresco, già questa sensazione. Senti Giovanni, continua a fare un po' il nostro musicoterapeuta. Direi che un altro effetto del caldo è proprio la stanchezza. Sai che uno non fa fatica anche ad alzarsi per andare al frigorifero a prendersi un po' d'acqua. Per queste seconde categorie di persone spesso si associano anche alle prime, chi è stanco non si fa venire le idee. Che cosa suggeriamo? Come brano musicale? Certo. Intendi? Ecco il brano Prendimi, perché anche lì all'interno di questa musica ho voluto comunicare tutto ciò che vorrei essere ma che purtroppo non sono, e quindi una grande freschezza, una grande vitalità. Già meglio, professor Comi, caldo, umido, ma non importa, già non dobbiamo dire che abbiamo caldo, ma con una buona musica ci si tira su, lei conferma? Credo proprio di sì, credo che come sappiamo il nostro cervello trae delle conseguenze assolutamente positive dalla musica, la musicoterapia è una delle strategie che usiamo per riabilitare il nostro cervello, non a caso. E allora Giovanni Allevi, la buona musica ci dà una mano, tra l'altro, allora rispondo ai tanti sms, le date dei concerti di Giovanni Allevi sono tantissime e allora le trovate sul sito di Giovanni Allevi, Giovanni posso dire così, giusto? Sì, sì, però ecco, perché, magari... Però, scusami, poi tu aggiungi quello che vuoi, la mia indicazione è seguitelo di tappa in tappa sino al 1° settembre, data del concerto di Verona all'Arena. L'Arena, lo sappiamo, è grande, ma meglio attivarsi sin d'ora a trovare un posto, perché l'occasione è unica, poi alla fine i posti scappano. Giovanni, se tu però vuoi darci un appuntamento speciale che ci aiuti a stare meglio, a ricaricarci, a sentire buona musica, noi siamo qui. Beh, io approfitto appunto di questa dell'Arena di Verona, che mi sembra una bella occasione. Ci sarà una grande orchestra sinfonica con musicisti che vengono da tutto il mondo per suonare la mia musica. Io mi sento un simpatico megalomane ad affrontare questa esperienza. Comunque il 1° settembre sarà fresco, quindi anche tra magari tra gli orchestrali ci sarà qualcuno che soffre il caldo, e invece al 1° settembre caldo non ne avremo più e potremo goderci la musica. Giovanni, io ti ringrazio per essere stato con noi, è sempre piacevole essere in tua compagnia. Grazie, davvero un saluto affettuoso a tutti voi e grazie per la pazienza di aver ascoltato le mie farneticazioni. È molto piacevole, ricordiamo il 1° settembre all'Arena di Verona, professor Comi, magari ci incontriamo anche noi lì. Potrebbe essere una buona idea. Così finalmente ci sentiamo della buona musica insieme. Grazie al professor Comi che ci ha dato veramente una mano a capire che cosa fa il caldo sul nostro sistema nervoso, dandoci dei consigli. Io come sempre vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Buona giornata.